Va ora in onda Rock Revolution. You say you want a revolution. Well, you know we all want to change the world. You tell me that it's evolution. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Contribution. Well, you know we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be in diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Buonasera. Oh, mamma mia, che voce mi è uscita stasera. Ma che è successo? Guardate il caldo, le corde vocali si tendono, si allargano, si allungano. Buonasera, bentrovati su CRM Happy Radio per questa nuova puntata di Rock Revolution. Buonasera Simone. Buonasera, buonasera a tutti voi. Siamo pronti quindi a iniziare questa ennesima puntata con tanta musica rock and roll. D'altra parte in regia Gianni, che salutiamo, nostra redazione Ida, anche lei pronta all'attacco per trascorrere queste tre ore di rock e di musica emergente nel miglior modo possibile. Vi ricordiamo subito i metodi per mettervi in contatto con noi: SMS 335 5637 251, ancora Facebook www.facebook.com/crmpradio, oppure cercate Rock Revolution redazione, ancora il contatto email diretta @rockrevolution.it. ecco, ormai lo sapete, insomma, ci potete anche seguire in webcam oltre che in audio dal nostro sito, sia dal sito di Rock Revolution che da CRMP Radio, insomma, che conoscete abbastanza bene. Siamo pronti quindi a iniziare questa sera, davvero tanta roba, interviste, contro interviste, domande, notizie, insomma di tutto. Chiaramente rock and roll, se avete piacere di farci sapere che esistete, contattateci dalla nostra pagina Facebook. Alzate il volume, ormai questo lo sapete, venerdì sera dalle 21 si alza un po' il volume, perché il rock deve essere anche sentito con un certo volume, se no non ti dà quella scarica di adrenalina necessaria, che poi serve per tutta la settimana, ragazzi. Dal venerdì al venerdì bisogna fare il pieno. Iniziamo con due brani in sequenza, molto belli. Poi dobbiamo salutare anche gli amici di Cagliari, non ci dimentichiamo. Iniziamo con gli Airborne, con Set Up for Rock and Roll, e Guns N' Roses con Night Train. Inizia Rock Revolution. Io del rock, grazie per questa occasione per spaccare. Siamo i tuoi umili servitori, ti prego, dacci il potere di mozzar loro il fiato col nostro energetico rock. Nel tuo nome preghiamo. Amen. Are you ready to go? Now we got what you want.

Mamma mia, che belli Queen, veramente. È un grandissimo successo. I Want It All. Su CRM con Rock Revolution siamo tornati dopo il primo break pubblicitario. Siamo tornati a parlare di rock, a parlare di notizie, e ci sono davvero molte cose di cui parlare questa sera. Parleremo degli Slipknot, ad esempio. Sì, parleremo infatti dei malumori che continuano appunto in casa Slipknot, il cui futuro sembra sempre più essere caratterizzato dall'incertezza. In particolare Corey Taylor, a differenza di Joey Jordison, un bel scioglilingua, sembra non credere molto nella band e nei futuri progetti che potrebbero essere portati avanti. Corey infatti ha confermato che all'interno del gruppo sono presenti idee e sentimenti contrastanti, il che rendono davvero difficile una prosecuzione dell'esperienza artistica della band. Senza dubbio il tour imminente metterà alla prova gli Slipknot, e dopo l'estate ci sarà qualche novità in un senso o nell'altro, insomma saremo bene, a vedere. Bene, abbiamo delle date anche delle città del tour? Ancora non sono state divulgate. Nulla. Va bene, allora questa sera, come anticipato, avremo due interviste, intervista telefonica, ci metteremo in collegamento con Parma per conoscere The Secret Tape, e poi qui invece in studio con noi da Monte Maggiore bel sito, che ho rinominato Mont Major Good Sight, una band molto forte, si chiamano Old Legend, e li avremo qui con noi e ascolteremo un po' di musica di quella proprio cattiva cattiva che picchia, e quindi ecco, preparatevi psicologicamente perché ci sarà veramente da ascoltare musica molto forte. E iniziamo con un pezzo che tra l'altro è abbastanza forte, giusto per darvi un'idea di quello che saranno poi i ragazzi questa sera qui a Rock Revolution. Adesso arrivano gli Slipknot con Before I Forget. Questo è un album di almeno 5 anni fa. Adesso sono pronti con delle novità molto interessanti oltre al tour, staremo a vedere. Closing in and out. That's a stress. Not a

il tuo spot con prezzi unici. I nostri speaker leggeranno esattamente il tuo testo, pronunciando la perfetta dizione, rispettando determinati criteri di qualità, con voci maschili e femminili ben impostate, chiare e senza cadenze. Ideale per il tuo spot radiofonico di grande impatto. Inoltre, disponiamo le migliori basi musicali prodotte da musicisti di altissima professionalità. Contattaci al 331 30 83 464. Alfa Omega, costruttori del tuo business. Per i tuoi momenti brillanti, Mineo Gioielli, eleganza per sempre. Giungi un tocco di piacere ai tuoi regali e alle tue feste. Indossa o regala un gioiello Mineo e sarai elegante e affascinante. Un regalo fa piacere a chi lo riceve, ma anche a chi lo fa. Allora, Mineo Gioielli, a Bagheria, via Flavio Gioia 3, telefono 091 96 23 13. Per i tuoi momenti brillanti, Mineo Gioielli, eleganza per sempre. Il mare ti riserva un mare di suggestioni. Puoi scoprirle soprattutto a tavola. Al Porticciolo, la nostra specialità è il pesce fresco preparato in mille modi, tutti deliziosi. Al Porticciolo, un ristorante particolarmente accogliente. E poi c'è l'ospitalità di Nicola. Al Porticciolo, nel cuore del centro storico a Cefalù, in via Bordonaro 66, telefono 0921 921 981. Locale climatizzato. Concessionaria esclusiva per la pubblicità su CRM per Termini Imerese Alfa Omega. Telefono 331 308 34 64. Tutti i venerdì dalle 21 su CRM Happy Radio Rock Revolution, il programma rock di CRM. Grandi successi del passato e nuove proposte musicali presentati da Filippo Brancato. Allora, eccoci nuovamente in diretta con Rock Revolution, 21.32 di venerdì sera. Se sentite poi la replica, non vi spaventate. Replica domenica sera dalle 21 a mezzanotte. Potrete così riascoltare con calma quanto vi siete perso. Anche in podcast, quindi se visitate il nostro sito internet crmpiradio.it o rockrevolution.it troverete poi tutte quante le puntate in podcast, quindi le registrazioni che potrete comodamente ascoltare quando preferite, anche la notte. Allora, stiamo provando a metterci in collegamento con Parma, dove andremo a conoscere questo progetto musicale molto interessante. Come sapete, ogni settimana intervistiamo delle band emergenti, alcune in studio, altre da altre località d'Italia. E non solo, che abbiamo intervistato anche dei gruppi dall'estero. Allora, questa sera, nel caso specifico, i Secret Tape, The Secret Tape. Il loro MySpace è http://www.myspace.com/thesecrettape. Il nastro segreto dovrebbe significare. Adesso stiamo ancora provando a metterci in collegamento. Vediamo se riusciamo. Nel frattempo, se avete piacere, potete inviarci degli SMS al 335 56 37 251 o chattare con noi con il Messenger se siete su internet, aggiungendoci ai vostri contatti diretta @crmpiradio.it e ancora su Facebook dal nostro profilo CRMP Radio o Rock Revolution. Allora, dovrebbe essere tutto quanto pronto per iniziare l'intervista di questa sera. Dovremmo anche essere al telefono. Vediamo, forse con Andrea. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao, sono Massimo, non sono Andrea però. Oh, Massimo, benissimo, piacere intanto e benvenuto a Rock Revolution. Ciao, buonasera. Allora, senti, cominciamo da una domanda semplice. Chi sono i Secret Tape e cosa fanno? Allora, i Secret Tape sono una band di Parma formata nel maggio del 2008 che ha inciso un album per Moonlight Record nel dicembre del 2010 e ha pubblicato questo album a marzo del 2011 e che sta attualmente cercando di farsi conoscere in tutta Italia, diciamo. Senti, non è difficile sentire nelle vostre canzoni una forte affinità con il Brit Rock e la musica inglese in genere. Da dove nasce questo legame, questo trasporto? Sì, diciamo, noi all'inizio prendevamo molto spunto dal Britpop e dall'indie più che altro britannico. Col tempo poi abbiamo cercato di evolverci e di passare un po' questa fase, visto anche il periodo in cui molti gruppi si sono buttati in questo genere, e abbiamo cercato di irruvidire un po' scusa la cosa, spostandoci verso sonorità un po' più garage. Diciamo che secondo me siamo un po' più diversi dal classico Britpop. Sì. E siamo riusciti a rendere tutto un po' più sporco a livello di suoni. Senti, ma ci sono uno o più gruppi che sono stati importanti per la vostra crescita musicale, ai quali vi sentite più vicini come modo di suonare? Non so, direi probabilmente gli Strokes sono quelli da cui traiamo più ispirazione, piuttosto che i Libertines o anche gli stessi Arctic Monkeys. Senti, parliamo del vostro ultimo album, è uscito appena 2 mesi fa. Come sta procedendo questa fase di promozione ed in che modo, insomma, vi state dando da fare per diffondere la vostra musica? Ma la promozione sta procedendo bene, abbiamo fatto una 15ina di concerti da marzo qui, prevalentemente nel nord Italia. Cerchiamo di farci conoscere più che altro al giorno d'oggi tramite internet, quindi social network, Facebook, MySpace, SoundCloud, eccetera eccetera, e vediamo che i risultati stanno arrivando, nel senso molta gente ci scrive cercando di contattarci, dicendoci che insomma piace la nostra musica, piace quello che facciamo. Una bella soddisfazione. Esatto, sì. Senti, l'album Moonlight Records, abbiamo detto etichetta è Moonlight Records, sta andando in promozione, state facendo appunto la promozione, ma vogliamo sapere perché un ascoltatore dovrebbe ascoltare il Secret Tape? Probabilmente dovrebbe ascoltarci se cerca qualcosa di immediato, di non troppo costruito, se è qualcuno che di solito ascolta un genere comunque affine, quindi che nasce dall'indie rock, ma che non si vuole fermare a tutte quelle migliaia di gruppi che ormai ci sono in Italia e all'estero, che sono rimaste ferme al canone degli Strokes piuttosto che dei Libertines, ma cerca qualcosa che si sia un po' evoluto pur non perdendo in naturalezza e in espressività. Certo, assolutamente d'accordo. Senti, ma il Britpop in Italia come va secondo te? Ma per quello va sempre abbastanza bene, probabilmente da quando sono arrivati gli Oasis a inizio anni 90, è un genere che non è mai morto. Probabilmente è stato un po' abusato negli ultimi anni, quindi abbiamo visto centinaia di gruppi provare a fare musica come gli Oasis, come gli Strokes, come gli Arctic Monkeys, però in Italia purtroppo non c'è mai stato un vero decollo di questo genere. Certo. Tutto Senti, quello che arriva da Oltremanica, arriva dagli Stati Uniti, però dall'Italia non è arrivato niente di questo genere, probabilmente perché il pubblico italiano non ha colto il genere. Ma ci siete mai dati una spiegazione di questo fenomeno? Personalmente no, credo che comunque purtroppo in Italia, come in molte altre parti del mondo, ci sia il problema che in mainstream passano solo certi tipi di gruppi e certi altri generi sono un po' confinati, quindi sentiamo molti gruppi, c'è una scrematura, molti cantautori, dici tu? Molti gruppi che fanno musica pop, però di rock vero suonato in Italia a livello di grande distribuzione non se ne sente. Certo, sì, questo purtroppo è una grave pecca, insomma, della nostra bella nazione. Massimo, senti, allora ricordiamo, insomma, la formazione della band. Abbiamo Andrea Grandinetti, voce chitarra, Lorenzo Belli chitarra e voci, Alessandro Boschi basso e tu Massimo Bercella alla batteria. Ho sentito delle urla dall'altra parte, salutiamo, sì, diciamo tutti quanti gli amici della band. Ma state andando a suonare? Avete già finito di suonare? Sì, abbiamo suonato per aperitivo. Ah, una cosa un po' strana, abbiamo suonato qui in un locale a Parma. Ma in versione acustica o...? No, in versione completa, diciamo. Ah, che bello, e la serata come continuerà adesso? Ma adesso penso che andremo a bere qualche birra in compagnia. Bene, bene, facciamo un brindisi virtuale con voi. Bene, vi ringraziamo, vi facciamo tantissimi complimenti per il vostro progetto musicale. Ascoltiamo quindi The Secret Tape, Me, You and Paul. Grazie ragazzi, alla prossima. Grazie mille. Forever. The Secret Tape, Me, You and Paul. Che bello, ragazzi, complimenti, divertitevi a Parma. Veniteci a trovare quest'estate a Cefalù, in Sicilia, venite a fare il bagno a mare, mangiare le panelle, cannoli e fare rock and roll. 21:41, fra una ventina di minuti inizierà il Rock for You, il momento più atteso per molti amanti da rock. Infatti ci saranno 4 successi rock in sequenza senza interruzioni anche questa settimana, grandi pezzi passati molto molto interessanti, sempre verdi oserei dire. Mentre noi adesso andiamo ad ascoltare una canzone che poi è stata coverizzata, insomma, in mille modi. Ne ho sentita una versione anche elettronica, insomma, pensate un po'. Stiamo parlando di Ram Jack. Beh, avete sicuramente riconosciuto, no? Questo riff di chitarra d'apertura. Salutiamo tutti gli amici su Facebook che stanno chattando con noi. Cliccate su mi piace, grazie. Poi facciamo anche i nomi, va bene, facciamo anche i nomi, dai. Adesso quindi Ram Jack, e questa si chiama Black Betty. Ah, che bello sto pezzo, eh? E vabbè. Rock Revolution, grandi successi attuali ma anche del passato. Ogni venerdì sera dalle 21 a mezzanotte vi teniamo compagnia con il rock, ormai lo sapete bene. Potete seguire anche in webcam. E alle 22:15 avremo la band ospite di questa sera da Monte Maggiore Belsito, bel paesino. Loro sono gli Old Legend, mentre adesso arrivano gli Status Quo con Roll Over Beethoven. Roll, Roll Over Beethoven, un classico sempre verde della musica rock and roll di tutti i tempi. Ci sono tanti altri, Chuck Berry. E vabbè, la prossima puntata li ascolteremo. Io sarei tutta la notte ad ascoltare grandi classici del rock, ma cerchiamo di venire incontro anche a voi. Però so che il prossimo pezzo è un altro grandissimo classico, una bella canzone d'amore, calma calma. Quindi se siete con la vostra donna nella macchina, tenete le mani ferme. Sono i Ronettes, Be My Baby. Tua pubblicità. CRM. Pronto in tavola a Castelbuono. Piatti pronti, antipasti, primi, secondi, pizza al taglio, catering e banqueting. Tutto per i giorni più belli e le ricorrenze più importanti. Inoltre noleggio attrezzatura per banchetti. Pronto in tavola di Bacesi Salvatore. Via Fonte di Camar 111 Castelbuono. Telefono 339 4896 332. Pronto in tavola. Portate a tavola tutti i sapori e i gusti della nostra esperienza. Ambrogio, andiamo in via Monte Napoleone, grazie. Signora, questa non è la sua limousine. Questa è la nuova Suzuki Swift. Beh, sì. È la prima che vedo. Bella. Grazie, può scendere? Ma perché? È alla mia altezza. Dai, facciamoci un bel giro. Tutti vogliono girare in Swift perché è nuova, ancora più bella, più elegante, più ecologica, più sicura e con prestazioni davvero sportiva. Per le strade sono già tutti fan di nuova Suzuki Swift. Nuova Suzuki Swift. I'm a fan. Corsama, sede, officina e ricambi a Palermo, in Viale Michelangelo 57 127, succursale a Campo Felice di Roccella, strada statale 113, chilometro 202-300. Corsama, concessionaria ufficiale Suzuki. Direttore, ecco la lista di clienti Caffacli. Alessandro Manzoni a Milano, Giuseppe Verdi a Ragusa, Grazia Deledda a Bologna, Giuseppe Mazzini a Como e Marco Tullio Cicerone a Matera. Ah, però, tutti nomi famosi. I nostri clienti sono tutte persone importanti. Al CAF Agli puoi esserlo anche tu. Ti accogliamo con cordialità e ci occupiamo delle tue tasse con cura e competenza. CAF Agli, valori che contano. www.caf.agli.it. A Palermo la nostra sede è in via Trapani 3. Chiamaci allo 091 74 34 702. Un locale accogliente per giovani e non. Bebop, New Look, panini, crepes, piadine. Potrete gustare menù particolari, antipasti,

Rock for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Quattro successi rock in sequenza, senza interruzioni. Are you ready to go? rock di tutti i tempi, in sequenza mixata. Bene, siamo pronti per iniziare. Volevo anche una presentazione, sai, di quelle ufficiali. Dopo questo Rock for You sconvolgente, questo momento di silenzio, mi si è gelato un po' il sangue nelle vene. Allora, iniziamo ufficialmente con l'intervista. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. Tutto un po' lento stasera, forse perché c'era la siesta durante il Rock for You e quindi per riprendere i ritmi il nostro regista questa sera fa un po' i capricci. Vabbè, allora diamo il benvenuto questa sera in studio con noi da Montemaggiore Belsito, gli Old Legend. Buonasera, avete sentito che standing ovation, ragazzi? Bellissimo, bellissimo. Naturale, tutto il pubblico c'è stasera qui con noi. Allora, benvenuti a Rock Revolution. Abbiamo questa sera con noi, manca qualcuno, chiaramente, sì, no? Sì, allora, sì, fate sì. Voi le presentazioni. E allora, io sono Roy, il chitarrista. E io sono Alex, il batterista. Perfetto, poi allora nell'altra, insomma, nella formazione c'è Ciccia Newark, sì. Che è un soprannome Newark o proprio il cognome della ragazza? No, è un soprannome. Ah, un soprannome, ok. Poi c'è Riccardo The Crucifier, sì. In inglese. E poi Maso Alasto, ma che nomi avete, ragazzi? Ma sì, alla fine. Ma cosa è successo? Senti, allora, gli Old Legend, ricordiamo il MySpace, www.myspace.com/oldlegend, una vecchia leggenda praticamente. praticamente, no? Cos'è? Diciamo che il nome, in un certo senso, l'abbiamo scelto durante delle prove, dopo una sessione di prove, in un certo senso ci siamo immaginati come dei menestrelli arrabbiati che narrassero, diciamo, antiche vicende. Poi, ecco, menestrelli, perché poi voi siete, insomma, gothic metal, death metal, black metal. Più sul death black. Death black, sì, death più black. Che gothic, death black. Death black. Allora, discografia degli Old Legend, andiamo nel 2006, dove producono un demo, Land of Terror, poi 2009 una full length Castle of Perdition, e poi nel 2011 Catafalque, come si dice? Catafalque. Catafalque. Normale. Oh, allora spiegateci un po' questa vostra carriera discografica, cioè dal 2006 al 2011 come vi siete evoluti? Ma ogni prodotto qui, ogni registrazione che abbiamo fatto, diciamo, ha ripercorso quello rappresenta una parte precisa della nostra esistenza, perché in Land of Terror eravamo abbastanza giovani, tra virgolette, mm-hmm. molto inesperti, acerbi, sì, prima formazione, per cui mentre il secondo è un full, appunto, è un album, ci siamo impegnati sulla lunga distanza e raffigura una nuova un nuovo aspetto, l'aspetto successivo della band, mentre quelli che siamo attualmente, gli Old Legend di adesso, vengono rappresentati da questo promo 2011, Catafalque, con la nuova formazione, nuovi brani, nuovo tutto, insomma. Un sacco di novità. Sentite, ma quanto è apprezzato il genere metal dalle vostre parti? Nello specifico, insomma, anche il genere che suonate voi? Ma alla fine, vuoi o non vuoi, ci sono comunque... è un genere di nicchia, e secondo me è giusto che sia così, perché certo, non può essere, certo. Non avrebbe lo stesso significato se fosse un genere di un bacino d'utenza enorme. Basto, certo, ecco, certo. Però viene visto, non so, se in maniera magari dettata da un pregiudizio, da determinati cliché, viene visto in maniera negativa. Per noi è solo musica, è un tipo di espressione musicale, tendiamo ad esprimere messaggi, e il modo in cui ci riesce meglio è così. Ci riuscite molto bene. Il metal. Senti, grazie. Ma parliamo di influenze musicali, no? Presi singolarmente, avete tutti sempre seguito la stessa linea musicale, o le vostre influenze poi sono in disaccordo tra loro, e quindi viene fuori questo incrocio, questo scontro fra generi musicali diversi che danno vita poi a quello che è il vostro sound attuale? Ora più che mai, diciamo, per via delle singole influenze di ognuno dei membri, per così dire, della band, siamo abbastanza più estremi, tra virgolette. Mm-hmm. Difatti l'ultimo promo è molto più estremo rispetto ai lavori precedenti. Per quanto riguarda le influenze personali, poi alla fine ogni tipo di musica, se così si può dire, lascia qualcosa a colui, al musicista che suona. Ecco, perché noi avevamo una canzone di Gigi L'Alessio che ci avete no. non comprendo. Qualunque genere di musica, quasi tutta la musica. Io sono un po' dal rock, blues in poi, altre cose non mi piacciono, però non mi rispecchiano, ecco. Alex, io faccio confusione forse con i nomi, giusto? No, allora, io allora sono Roy voi. E Alex. Alex, volevamo sentire anche la tua campana. Perfetto, no, io in quanto batterista non metal, mm-hmm. io non Come mi definisco metal, batterista in genere. Mm. A me piace la musica in genere, di conseguenza cerco di prendere quello che mi lascia. Ma tu sei un autodidatta o hai studiato musica? Ho studiato pochissimo, vorrei continuare a studiare. Ma il gruppo preferito, il cantante, il musicista preferito qual è? No, fai un nome, spara. No, è impossibile, sono proprio tanti, che diversi, non... ognuno con la sua peculiarità, quindi... Sentite, allora noi sentiremo questa sera i vostri brani, purtroppo non c'è la cantante, no? Che ha una voce da paura, ragazzi, veramente è una voce potentissima. Io ho ascoltato i brani e poi ho guardato sul MySpace le fotografie, e anche con la redazione con Ida non credeva al fatto che fosse una ragazza a cantare. Cioè, dove avete trovato questa voce così strana? Ma intanto, in un certo senso, avere la cantante che canta così è comunque sia una curiosità. certo, per certo. Le altre persone. Poi è una cosa particolare, ma per chi la vive alla fine giornalmente, prova dopo prova, concerto dopo concerto, diciamo è una cosa normale. Però mi rendo conto per certo, chi per l'ascolta voi che ci suonate, la prima volta no. È allora una io cosa la prima volta che l'ho ascoltata ho immaginato la pubblicità di alcune chewing-gum in televisione, no? Che c'è la tipa che apre la bottiglia e si gonfia. Allora in modo inverso immaginavo questa ragazza, che poi forse non è neanche altissima, no? È una statura media, che apre spalanca la bocca ed esce questa specie di tornado praticamente. Sì, impressionante, sì. Questa voce è tremenda. Vabbè, ve lo facciamo sentire così evito di fare tutte queste descrizioni, forse è la soluzione migliore. Allora, il primo brano di questa sera, quindi gli Old Legend con noi a Rock Revolution, andiamo ad ascoltare Apology for the Fakes, for the Fakes, for the Fakes. In inglese stasera lascia desiderare. Mamma mia ragazzi, da paura. Da paura. Old Legend. Sentite questa voce così tranquilla e di una ragazza che vabbè, l'età non si può svelare, però andate a guardare il video e rimarrete sicuramente colpiti. Ragazzi, torniamo a parlare di Old Legend, torniamo indietro nel tempo e abbiamo estrapolato dal vostro MySpace questa informazione che appunto informa che avete dal 2006 prodotto 3 dischi. Però noi volevamo sapere quale vi ha dato maggiore soddisfazione e perché. Ma ognuno, nel momento in cui l'abbiamo fatti, subito dopo averli fatti, ti posso assicurare che ogni prodotto ha dato la sua soddisfazione per il momento che vivevamo, certo, che abbiamo vissuto, certo, in quel dato. Parlando di adesso, col senno di poi, attualmente Catafalque, il nuovo promo, è quello che ci rispecchia di più, quello che ci dà soddisfazioni, per quanto con Castle of Perdition abbiamo fatto un album, però se devo vedere qual è la cosa che mi fa stare meglio, appunto perché è la più recente, la nuova formazione, tutto un periodo particolare. Quindi l'ultimo, senza dubbio, senza ombra di dubbio. Sentite, parlateci un po' invece della scena underground palermitana. Secondo voi è difficile trovare spazi per poter suonare? Come si mostra la gente nei confronti di un gruppo che fa la musica come fate voi? Ma a livello di scena underground, ti dico, ci sono un sacco di gruppi, un sacco di band, alcune non mi va di fare nomi perché sono amico con tutti, per cui potrei dimenticarne qualcuno, magari si offende e non lo voglio, però ci sono, ti consiglio di informarti perché è una cosa davvero, ci sono parecchie band interessanti, alcune interessanti, altre un po' meno, ma per gusto personale ovviamente. Bene, allora ascoltiamo il prossimo pezzo degli Old Legend, tratto proprio dall'ultimo album. Qui su CRM per Rock Revolution, anche questo venerdì sera, la musica nuova, la musica emergente, tutta per voi. Legend. Arrivano dei messaggi su Facebook che andiamo a leggere. Allora Veronica dice: e costei sarebbe una donna? Wow, fatele tanti complimenti da parte mia. Grazie Veronica. Poi Salvo dice: mamma mia che sono tosti questi ragazzi, complimenti. Beh, io ne approfitto anch'io per ringraziarli, veramente, grazie mille. Bene, bene, bene. Allora ragazzi, continuiamo la nostra intervista parlando di difficoltà, o meglio, quali sono secondo voi le difficoltà che incontra chi decide di proporre questo genere di musica? ci sono, no? Ci sono. Facciamo un breve brainstorming. Io sono del parere che chi suona il metal non lo fa né nella fama né per i soldi, lo fa perché è una passione. Perché col metal non fai i soldi. Okay. È aerobica anche. No, a parte lo scherzo, comunque è un'attività fisica non indifferente. Ma senza no? dubbio, sia fisica che spirituale, per quanto mi riguarda, per il mio modo di viverlo, di vivere la musica in sé. Perché nel momento in cui vai a fare un pezzo, tu metti del tuo, della tua emotività, di quello che senti. Sì, io ho una visione della musica abbastanza romantica, tra virgolette. Uh-huh. Nonostante il genere sia death metal, sembra un paradosso. Certo, però. No, beh, comunque ci sono anche altri artisti che poi hanno fatto successo a livello internazionale, che fanno dei pezzi comunque black metal molto romantici. Sentite, pensate di mantenere inalterato il vostro genere nei prossimi lavori, o volete introdurre elementi di diversità? Quali direzione seguireste prossimamente? Cioè, pensate che questa linea di suono va bene e continuando, oppure ci saranno delle evoluzioni? Questa... Non so, vi mettete a cantare in italiano ad esempio? No, già abbiamo, però il dialetto lo utilizziamo. In Catafalk c'è il ritornello che è il dialetto. Mi piace la commistione tra dialetto ed inglese. In italiano no. Perché secondo te non è musicale? Perché lo standard non è quello. Ci sono alcuni gruppi che cantano in italiano. Ora su due piedi è anche difficile a ricordarli. Però linea qualcuno 77, c'è. Sì, ad esempio. Però non penso renda meglio utilizzando l'inglese. Questo, il metal in generale, il rock è inglese, in Inghilterra. Perfetto. È americano. Insomma. Sentite, a Montemaggiore Belsito. La scena metal è fervida. C'è una grande scena. No, scherzi a parte. Montemaggiore alla fine è un piccolo borgo, un piccolo paese. L'unica band metal delle vicinanze attualmente, perché in passato ce n'erano state anche in zone limitrofe, Cerda, Sclavani Bagni, per esempio, c'erano altre band metal, ma attualmente che io sappia, cioè, non voglio fare lo stronzo, scusate. Senti, ma ci sono legend, non lo so, non ne conosco. È giusto. Però vorrei che si movimentasse la scena metal all'interno dei piccoli contesti, perché abbiamo tanto da dire. Siamo d'accordo. Allora andiamo ad ascoltare il prossimo brano degli Old Legend, Dark Mountain, se non erro. Lo ascoltiamo fra pochissimo, vediamo in regia cosa ci dicono. Io tra l'altro volevo farvi sapere che potete chattare con noi su Facebook cercando Rock Revolution Redazione, quindi lì c'è il nostro profilo, potete sia chattare sia lasciare dei messaggi per i nostri amici qui questa sera, oppure utilizzare il telefono. Ormai si usa poco purtroppo la tecnologia. Voi usate ancora il telefono? No. Cellulare? No, certo. No, vabbè, ormai diciamo... purtroppo con la tecnologia, quando si deve chiamare un amico, ma di tanto in tanto qualche lettera la scrivo. Ah, qualche lettera, a mano o col computer? No, a mano. Ma difficilissimo. Io faccio tipo delle scritture stranissime, delle forme, perché purtroppo c'è anche questo. Ovviamente, no? Era una battuta. Con la tecnologia, ecco. Vabbè, va. Allora, ascoltiamo Old Legend. Vediamo se dalla regia è tutto pronto per ascoltare questa sera. Forse sarà il caldo, la temperatura è abbastanza calda, però forse abbiamo il problema col computer che fa i capricci. Una volta si prendeva il disco, mettevi nel vinile e la puntina era tutto automatico, era molto più semplice. Adesso con la tecnologia, purtroppo ci sono questi problemi. Vabbè, allora facciamo una cosa, mandiamo un pezzo comunque alla nostra playlist e subito dopo ascoltiamo ancora gli Old Legend qui a Rock Revolution per presentare il loro progetto, davvero molto molto interessante. E quindi andiamo ad ascoltare una bellissima canzone quasi romantica di Ronnie James Dio e un altro chitarrista appena appena conosciuto, parliamo di Angry Malmsteen. E questa appena. È la conoscete questa canzone? Sì. È molto bella. Poi tra l'altro si vede anche una scena dove gli Angry Malmsteen infila le dita nell'acqua perché stanno prendendo fuoco praticamente, no? Anche voi muovete bello veloci le dita nella chitarra, ho notato. Ti ringrazio per questa... Ecco, siccome anch'io strimpello un po' la chitarra, mi chiedevo, ma cosa si usa? La vasellina oppure... No, solo studio, passione e perseveranza. Ah, perfetto. Bene, allora non ce la farò mai. Every time I look in the mirror, all these lines in my face get clearer. The past is gone, it went by like dusk to dawn. James Dio, Young with Malmsteen, Dream On. Che bella questa canzone, molto rilassante. Va bene, allora abbiamo risolto il problemino al computer, l'abbiamo buttato dalla finestra, abbiamo preso un altro. Purtroppo bisogna fare così, ragazzi. Sì, sì, ora intanto... come ora. No, no, c'è la raccolta differenziata, non diciamo ste cose. Va bene, ascoltiamo allora il brano degli Old Legend di cui parlavamo poco fa. Si intitola New Violence. Tempo, sono arrivati anche dei messaggi. Ciao, sono Francesca, la cantante degli Old Legend. Oh, Francesca, vi sto seguendo, grazie del supporto, un saluto a tutti, keep metal alive. Sempre. Ne approfitto anch'io per, ma ne approfittiamo anche noi per mandarle un grande abbraccio ed un bacione. Bene, bene, speriamo di incontrarci prossimamente, cara Francesca. Allora, passiamo a progetti futuri, concerti, CD, competizioni, rassegne musicali. Cosa avete in programma? Mi ero distratto un attimo. Riformulo la domanda per la Giulia. Passiamo ai progetti futuri: concerti, CD, competizioni, festival, quant'altro. Cosa avete in programma? Perfetto, abbiamo un concerto allo Zazà Mon Amour a Palermo esattamente giovedì prossimo, giovedì 26 maggio. Per cui spero verranno, insomma, gente interessata, amici, possano essere lì con noi a supportarci. A partire dalle? Ma sempre intorno alle 11, 10 dalle e mezza 11. 11. Bene, suonerete soltanto voi? Ci saranno altri gruppi? No, ci saranno un gruppo di apertura, poi suoniamo noi e infine ci sarà un gruppo thrash metal di Palermo, Amethyst. Ah, benissimo. Sentite, allora, ascoltiamo subito l'altra canzone oppure facciamo... Sì, ascoltiamo l'altra canzone, siamo un po' in ritardo e poi saluti e abbracci finali, va bene? Ottimo. A dopo. Allora, ascoltiamo quindi Dark Mountain. Old Legend su CRM Rock Revolution questa sera, che non manca la musica emergente, la musica nuova, la musica bella. We'll be right back. Siamo arrivati alla conclusione di questa intervista. Questa sera abbiamo avuto il piacere di ospitare qui con noi gli Old Legend da Montemaggiore. Bel sito, voi siete tutti in Montemaggiore? No. Noi nel nostro piccolo siamo una band internazionale. Ah, che bello. Della Sicilia, ovviamente, dell'Italia siciliana. No, io e lui siamo di Montemaggiore. Riccardo, altro chitarrista, è di Mazara, il bassista è di Palermo. Quindi ne fa di strada. Francesca di Modica. Ci vediamo a Palermo, però, per motivi di studi siamo tutti là, insomma, chi più chi meno. Ecco. Certo. Bene, la musica unisce, avete visto? Ragazzi, allora appuntamento giovedì 26 maggio allo Zazà per ascoltarvi dal vivo. Sì. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, averci fatto ascoltare e gustare la vostra musica. Tanti complimenti per il vostro progetto. Grazie a voi per averci dato questa possibilità di farci conoscere agli ascoltatori di Rock Revolution, ovviamente. Bene, mi raccomando, tenetevi aggiornati sul nostro sito rockrevolution.it. Quando ci sono delle novità fatevi sentire, mi raccomando. Posso dire un'ultima cosa? Certo. Tra l'altro, il nostro concerto ci sarà, è disponibile il nostro promo, per cui per chi volesse supportarci anche in maniera liquida, tra virgolette, in maniera... Certo. Concreta. In maniera concreta, ecco, lo può fare. Poi. Come?

Allora, siamo arrivati al momento del sondaggio della settimana. Simone, ogni settimana noi sul sito pubblichiamo tre artisti. Proponiamo infatti tre artisti che andiamo a selezionare dalla nostra playlist ufficiale, playlist che appunto è possibile ascoltare sul nostro sito. Da questa playlist prendiamo tre brani, i nostri ascoltatori vanno a sentire questi brani e a votare il brano che poi vorranno premiare, permettendo appunto alla band di andare in diretta in radio per una settimana su CRMP Radio. Bene, quindi inizia il momento del sondaggio della settimana. Il sondaggio della settimana. Allora, scopriamo quindi fra queste tre band, intanto abbiamo delle percentuali. Sì, diciamo che il vincitore appunto ha vinto con un bel distacco dalle altre che invece hanno ricevuto pochi voti. Bene, allora scopriamo chi ha vinto questa settimana. La band vincitrice del sondaggio della settimana è... Rullo dei tamburi. Anonymous Shapes con Winter Sun. Complimenti agli Anonymous Shapes, questa settimana in rotation su CRMP Radio. Complimentoni, questa è una bella canzone davvero. Si intitola Winter Sun, sole d'inverno. Adesso arriva l'estate. Turning away, cool spheres. Turning away from feeling love. That was so wonderful. Before I die, I'll tend to you again. I hold me back now, I'm sure. Letters are rough, all my focus. River will guide. sono gli Anonymous Shapes, Winter Sun. Hanno vinto il sondaggio di questa settimana, quindi in rotation tutta la settimana su CRMP Radio. Contenti? Complimentoni, bene, bravi. Adesso arrivano due brani in sequenza, due grandissimi successi del passato. Parliamo di una coppia veramente molto particolare, i Led Zeppelin con Celebration Day e i Depeche Mode con Personal Jesus. Tutto all'interno di Rock Revolution. Abbiamo ancora una cinquantina di minuti di puro rock and roll su CRM. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know. Grande Rock è su CRM Happy Radio con Rock Revolution. Diamoci sotto come dei dannati. Reach out, touch faith. You're wrong. direi alquanto psichedelica questa canzone, Personal Jesus, che poi Johnny Cash originale, ripresa dei Depeche Mode, dei Marilyn Manson, insomma chi più ne ha più ne metta. Allora, caro Simone, parliamo di Muse. Sì, parliamo dei Muse. Sta girando un po' sul web alcune dichiarazioni del batterista Dominic Howard e del bassista Chris Wolstenholme, che, intervistati nel corso di una cerimonia per il ritiro di un premio, hanno detto che il successore di The Resistance potrebbe essere molto meno rock del precedente, anche se il tono da dare al disco sarà valutato nelle successive fasi di registrazione. Per il momento non è ancora stata definita una data di uscita, ma ovviamente ci terranno aggiornati. Ormai tutti questi artisti amano usare Twitter per aggiornare i loro fan su quelle che sono appunto gli aggiornamenti delle loro registrazioni, delle loro esibizioni, e quindi penso anche loro, attraverso questo canale di comunicazione, terranno aggiornati tutti i loro fan sulle loro vicende. Bene. Parliamo invece di Judas Priest, che anche loro potrebbero ipoteticamente andare uscire con un nuovo album. Infatti ricordiamo che da tempo hanno annunciato la chiusura della loro carriera con un ultimo grande tour, che non a caso si chiamava Epitaph Tour, un nome che è tutto un programma. Ma siamo proprio sicuri che la band sia intenzionata ad abbandonare il palco? Questa è la domanda che si pongono molti dei loro seguaci. Sembra proprio dalle ultime dichiarazioni di Rob Halford che non sia proprio così. Infatti il musicista ha detto che sarebbero pronte alcune nuove canzoni che andrebbero a comporre un nuovo disco in uscita per il 2012. Ah, quindi un nuovo disco, sì. Bene. E quindi il ritiro poi andrebbe a posticiparsi intorno al 2015. Benissimo, vabbè, ci terremo informati, aggiornati riguardo gli sviluppi dei Muse. Nel frattempo facciamo un salto indietro di qualche mese, no? Perché sì, questo è il loro ultimo album praticamente. Esatto. Si intitola Resistance, c'è questa atmosfera iniziale veramente molto spaziale, direi. D'altra parte, insomma, parliamo di indie rock. Io quando ascolto i Muse penso sempre al mio carissimo amico che è Sergio. Sergio che Marino. Che è un grandissimo fan dei Muse, e anche qualche anno fa su Rock Revolution ha fatto proprio uno speciale sui Muse, ha affrontato tutti quelli che sono stati i loro lavori, e poi lui è un grande fan di Matt Bellamy. Ha partecipato anche a diversi concerti. Sì, è stato a Londra qualche anno fa per il loro concerto e ne parla sempre in maniera molto entusiasta. Bene, bene, vedremo di metterci in contatto anche con lui per avere degli aggiornamenti. E quindi adesso i Muse con Resistance. It could be wrong, but it should have been right. It could be wrong.

nature, honk honk honk, a danta, deja cruna nature, bapa lula lucha, bapa lucha. Give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer. Bene, cerchiamo a fare il blues un pochettino, eh? Una sera, tanto io da suono il basso. Io la chitarra, Gianni la chitarra, Simone impara a suonare. Io il triangolo. Il triangolo, sono siamo specializzato. Allora, tra l'altro, questa sera, da questa sera potete guardare le fotografie su Facebook, sul nostro profilo, fatte in tempo reale, cioè proprio vedere quello che succede nel backstage di Rock Revolution proprio mentre andiamo in onda. Quasi tutto quello che succede. Quasi tutto. E vabbè. Ultimi 30 minuti da trascorrere in nostra compagnia, andiamo a leggere la prossima notizia e parliamo di Beach Boys. Sì, perché si parla spesso di una possibile reunion dei Beach Boys che però finora non si è mai concretizzata. Però questa volta sembra che ci sia qualche speranza in più per i fans desiderosi di rivedere insieme la storica band californiana. E Brian Wilson ha infatti dichiarato: sto considerando la cosa, ancora non so nulla, ma sto considerando. In realtà non c'è niente che mi trattiene, è solo che non so se voglio avere intorno quella gente, ovvero gli altri ex membri della band, capisci? Rivolgendosi all'intervistatore, sono tipi strani, sono pazzi. Insomma, non ci sembrerebbe che non ci sono tutte le premesse per una reunion. Però i Beach Boys sono separati, ricordiamo, da 15 anni, che sicuramente non è un periodo breve, però nel campo degli artisti c'è sempre da aspettarsi di tutto, direi. Quindi infatti, chissà che non decidono. Poi loro hanno adesso una certa età, no? Parliamo di 50 anni a testa. E anche di più. Anche direi, di più, sì. Vabbè, attendiamo notizie. Mai dire mai. Mai dire mai. Andiamo ad ascoltare quindi un bel pezzo, un salto indietro nel tempo con i Beach Boys. E questa era la bellissima Surfing USA. If everybody had an ocean across the USA, then everybody be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hair, surfing USA. You'll catch them surfing at the outside USA, Ventura County line. Say note dei Beach Boys, Surfing USA. Che bella sta canzone, proprio sensazione di estate, di mare. E vabbè, sta arrivando anche qui, dai. Ancora qualche giorno. Ho visto già le prime persone andare in spiaggia a fare il bagno. Io onestamente sono un po' poco convinto. Anche perché insomma l'acqua ha una certa temperatura, adesso non è che è proprio caldo. Io anche, per me anche ad agosto è fredda. E vabbè, allora i Beach Boys, questa band californiana che a quanto pare ci porterà presto delle belle notizie, e noi siamo in attesa. Nel frattempo ancora USA con i Green Day, in sequenza con gli AC/DC, una coppiata veramente molto particolare, perché ascoltiamo dal punk al rock and roll. I'm having trouble trying to sleep. I'm counting shit but running out. As time ticks by, still I try. No rest for God, stops in my mind. On my own, here we go. My eyes feel like they're gonna bleed. Right up and bulging out my skull. My mouth's dry. My face is numb. Fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. Set on overdrive. The clock is laughing in my face. A crooked spine. My senses dulled. That's the point of delirium. On my own, here we go. Like they're gonna bleed. Right up and bulging out my skull. My mouth's dry. Face is numb. Fucked up and spun out in my room. Siete andati giù duri, gente. E io sono fiero di ognuno di voi, anche del più negato. Quindi cerchiamo solo di mettercela tutta. Magari ci sbatteremo la faccia. Ma anche ammesso, l'avremo sbattuta con dignità. Con una chitarra nella mano e il rock nei nostri cuori. E come dicono gli AC/DC, la nostra chitarra anche stasera morta. E a chi sta per fare rock, io rendo onore. We'll be right back. I'm dynamite. TNT. And I'll win the fight. TNT. I'm a power load. TNT. Watch me dai pantaloni sfavillanti, chitarrista degli AC/DC. Una coppiata davvero particolare quella di questa sera, dei Green Day, sicuramente non degli, uno degli ultimi album, anzi parliamo proprio di metà degli anni 90 con Brain Stew, e invece questo grande successo del passato degli AC/DC con TNT, dinamite praticamente, insomma. Adesso un altro salto indietro e abbiamo ripescato un gran disco del Queens of Stone Age che fa parte anche di un noto videogame. Si intitola No One Knows. How dobbiamo assolutamente salutare un po' di amici su Facebook che ci tengono compagnia. Mi fate morire, ragazzi. No, c'era questo nickname, Giuseppe Supertrans, che effettivamente lascia un po' di qualche dubbio. Infatti, no, vabbè, parte gli scherzi. Allora, sapete che ogni settimana ci teniamo aggiornati su quelle che sono le attività, i concerti e il movimento a Palermo, in Palermo City. E quindi abbiamo il piacere questa sera di avere con noi il nostro fotografo ufficiale, ma anche collaboratore esterno, e anche Salvo, Giuseppe e Salvo, che questa sera, ecco, sono con noi per portarci questa testimonianza di ciò che avviene a Palermo. Buonasera. Ciao Filippo. Allora Giuseppe, cosa è successo in questa settimana a Palermo? Concerti, cose del genere? Ma veramente questa settimana niente. A Palermo non è successo niente, almeno per me. Comunque ci sono un bel po' di cose. Adesso è cominciato il Tour de Force e un bel po' di concerti in giro, sia all'università, nelle varie piazze, nelle varie ville private. Bene, bene, quindi insomma si comincia a respirare l'atmosfera estiva. Sì, sta arrivando l'estate. Sta arrivando l'estate. Invece il nostro Salvo, che è sempre in giro per locali, è sempre al corrente di tutti quanti i concerti. Esce tutte le sere, Salvo, lo sapete? No, questa settimana, a parte le corse clandestine in via Ernesto Basile durante la notte, non... niente di particolare. Nulla di che. Ecco, noi siamo contro lo sfruttamento degli animali, anzi, mi raccomando, non fatelo più, non fate cattivi. Abbiamo qualche altra notizia, Simone, parliamo ancora di rock and roll e di prossime uscite, di concerti. Sì, il problema fondamentale è che mi hanno strappato questi due bravi ragazzi che ho qui accanto a me. Hanno ben deciso di far diventare il mio foglio delle notizie un aeroplanino che svolazzava per lo studio. Per lo studio. E ora il bravo Giuseppe sta provvedendo a raccoglierlo. Il bello che è il poi... bello, sì, veramente. Quindi ora lo sto scartocciando. Quindi da aeroplanino torna ad essere un foglio di notizie. E allora io vi parlerei... Questa qui devi leggere. E ho anche consigli del buon Giuseppe, che mi chiede di parlare di Judas Priest. Ah. Price, mi corregge. Che hanno annunciato la... io però ti direi, Peppe, che l'ho appena letta questa notizia, quindi vuol dire che tu non sei stato non è molto, attento, non è attento. Molto... Allora, Filippo, non ci sono più notizie, ci comunicano dalla regia. Non è vero, non è assolutamente vero, perché invece dobbiamo parlare, l'abbiamo sentito poco fa, e parliamo del nuovo album dei Queens of the Stone Age, che potrebbe arrivare entro la fine del 2011. Questo nuovo disco lo ha dichiarato Josh Homme, che è il frontman della band, che appunto aggiorna costantemente su Twitter lo stato di lavorazione del nuovo album, e le registrazioni proseguono senza intoppi, e dopo la pausa necessaria per partecipare al festival di Glastonbury, che è uno dei più importanti festival rock inglesi, la band si ritroverà nuovamente in studio per terminare i lavori di questo nuovo attesissimo album, appunto entro la fine del 2011. Bene, staremo ad aspettare insomma l'uscita di questo album. Nel frattempo, ragazzi, che ne pensate di fare un bel salto indietro nel tempo? Assolutamente sì. Bene, allora andiamo a ripescare un grandissimo successo del mitico Lou Reed, e questo si intitola Vicious. Hey, go! che tra l'altro da poco è uscito con un nuovo disco molto interessante che vi consigliamo assolutamente di ascoltare in francese, ecco, anziché in inglese, in francese, molto particolare. Allora, salutiamo gli amici su Facebook che ci stanno tenendo compagnia in chat, sempre tantissimi, numerosi, grazie, molto gentili, veramente. E andiamo a parlare con chi? Con Simone, con Giuseppe di Dream Simone, Theater. Simone. Dream Theater. Sì, sì, parliamo di Dream Theater. James Labrie. Peppe, mi correggi se dico una. Vedere. La leggiamo Labrie, che come la leggo la leggo Labrie. Labrie, che è la voce dei Dream Theater, è stato intervistato da Rock Radio UK ed ha parlato del nuovo album della band. Al momento sto registrando le parti vocali in Canada, mentre Jordan Rudess a New York sta registrando le tastiere e i suoi suoni particolari che solo lui sa riprodurre. Sì. La batteria, basso e chitarra sono già state completamente registrati. Penso che le operazioni di mixaggio potranno iniziare tra il 30 e il 31 di maggio prossimi. E come data di rilascio pensiamo al prossimo settembre, molto probabilmente agli inizi di quel mese, per l'appunto. Quindi insomma stanno dedicando alle singole registrazioni dei vari strumenti della band, e poi penso la voce sarà quella che sarà registrata per ultima, almeno solitamente. Certo. Si fa così. Bene, staremo a vedere insomma cosa ci proporranno qui a breve Dream Theater. Nel frattempo un pezzo che conoscete sicuramente molto bene, abbastanza enigmatico come suona, eh? Si intitola The Dance of Eternity. Un po' di Charleston effettivamente, questa canzone, certi momenti quasi, Simone? Sì, assolutamente sì, sono d'accordissimo. Senti, volevo dirti una cosa, volevo dirti che praticamente siamo arrivati alla fine. Ahimè, sì. Siamo arrivati anche questa settimana, alla fine, amici, appuntamento la prossima settimana, venerdì prossimo dalle 21 a mezzanotte, su CRMP Radio con Rock Revolution. Vogliamo ricordare come ascoltarci anche in settimana? Assolutamente sì, andate sul nostro sito www.rockrevolution.it, potrete ascoltare la replica in podcast del nostro programma, sia l'audio ma anche il video di tutto il programma, con le interviste sia telefoniche che in studio, le fotografie, insomma un sacco di materiale. Resto, questi due ragazzi accanto a me si stanno divertendo con gli origami. Sì, origami. Origami. Li sbaglio. L'origano è un'altra cosa, effettivamente. Grazie, buonanotte. A voi, buonanotte. Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM Happy Radio. Sto carico come una molla. È venerdì, domani è sabato e dopodomani è domenica. Io non vedo l'ora che arrivi lunedì. Sono talmente desideroso che mi ero dimenticato di dirvi: accendete le macchine, il computer per lo streaming, per Facebook, il canale 109, cioè Sky 1, guardateci, seguiteci alla radio, fate quello che volete, perché la puntata di oggi, lo sapete, è venerdì, è Sprofondo Rosso, special edition, drunk, quindi tutto quello che vi è accaduto quando eravate ubriachi. La sentite la musica? La sentite la musica? Mi ero dimenticato di suonare la messa. Io sono Dario Cassini e questa è Stalk Radio. Cosa sono i NEC? Pensate che i NEC erano grandi quando il nostro NEC era ancora piccolo, quindi pensate il tempo che cosa fa. Buonasera Vesper Giuli, come va? Ciao Dario, sono ancora qui. Lo senti il fiato sul collo della disoccupazione? Ancora no. Che sensazione provi? Sentiamo. No. No, stai negando l'evidenza. Non posso. Allora signori, amici, amiche, gentili telespettatori e radioascoltatrici, e quelli che rubano su streaming ai gratis, sappiate che l'argomento della puntata è il vostro. Allora, 800 310 538, per raccontarmi la più colossale figura di merda della vostra vita a causa dell'alcol, perché ognuno di voi si embriaga, perché ognuno c'ha il pubblico che si merita, e se vengo a scoprire che siete astemi non la prendo tanto bene. Io, a causa del metodo Stanislavski, ieri sera sono stato costretto a uscire e a bere dei whiskies per riuscire a capire di che cosa parlare oggi. 800 310 538, ma in compagnia della mia bottiglia di champagne che terrò sempre vicino a me nell'attesa di condividere con voi un racconto di ebbrezza alcolica, io immagino che se state facendo una caipirinha o un mojito, queste cose differentemente etero che si bevono all'ora di cena, è possibile che alle ore 20 vi siate persi le grandi notizie causa ebbrezza. Stavate soffiando nell'alcol testa a un posto di blocco? Non avete visto i telegiornali? E che cosa c'è a fare, zio Dariuccio? Gli highlights di oggi. Proprio non piace la statua di Papa Wojtyła. Rimuoverla o no, il Campidoglio pensa a un referendum. Offensiva mediatica di Berlusconi, annunciata un'iniziativa congiunta Premier Bossi per Milano. Bersani duro, è inaccettabile che invada le TV, non siamo in Bielorussia. Un oggetto non identificato sorvola una cittadina della Siberia, tra i testimoni anche i militari della zona. Troscan libero su cauzione, ha pagato la libertà $1 milione, percepirà comunque una pensione da 300.000 euro l'anno. Kate Middleton non può avere figli, dietro lo pseudo scoop ci sarebbe addirittura Camilla. Io dico che non vederli forse aiuterebbe l'equilibrio psichico, perché non sono sicuro di aver capito bene. Ma sembrerebbe che il Campidoglio pensa al referendum per togliere la statua di Papa Wojtyła. Cazzo, basta fare un referendum? Allora com'è che l'altare della patria sta ancora lì? Ma mettiamoci una bomba sotto e facciamolo volare sui cieli della Siberia. Voglio vedere cosa dicono i militari. Bersani è stato duro con Berlusconi. Così duro duro che il premier l'ha scambiato per il figlio di Bossi. Pensate, Silvio peraltro oggi era in TV dappertutto. Stava pure a Sky Meteo 24 per annunciare una perturbazione in arrivo dalla sinistra di Milano, con un minimo depressionario sulla casa della Moratti. Non è Kate Middleton che non può avere figli, è Camilla, lo ha detto Strauss-Kahn concludendo. Camilla è un raro esempio di contraccezione oculare, basta guardarla e scegli la sorella di Kate. Pippa, musica per noi! I know that I just need your light, I never done before.